init for you. Init your music for you. Con contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. RSD 102.2, una puntata a casaccio di Music for You. Ma perché? Che non lo sappiamo perché. Ma probabilmente per digerire la pinza decidiamo di riunirci dopo quanto? Forse sei mesi? Un parto. Sì, il tempo in cui Vanni e Pacciani molto probabilmente hanno avuto ragione di 12 coppiette. Noi invece decidiamo di non fare nulla sei mesi e incontrarci qui a inizio 2012 per spiegare che cosa. Niente, non spieghiamo niente. Infatti, oltre ad avere il microfono, il mitico Lele Terzariol, di fianco a me, mai pago, lui che le puntate in FM le taglia come un grissino, Alvise Pacciani, tagliale tutte, fa botto. Buonasera a tutti, Lele Terzariol tra i pali. Allora, Manona è sull'angolo basso. Quanto è bello, cucchiaio per lui. Bene, allora, il Ballotta de Noantri è qui di fronte a me per co-condurre condurre una puntata in cui noi vi spieghiamo quali secondo noi sono state le migliori uscite discografiche del 2011. Vabbè, andiamo bene. Sì, Dio, potevate chiederlo a qualsiasi altra persona, vi avrebbe detto qualcosa di probabilmente molto più intelligente. Sì, no. Sì, porta Bocelli sulle tre cime di Lavaredo, ti avrebbe spiegato meglio come si vedono. Esatto, sì. Guarda le montagne! Bocelli, guarda le montagne. Cioè, chiedete a un vegano cosa pensa della tagliata di Chianina e saprà dirvi molto di più. Ma io penso che tutto sommato buona. Perché anche con un po' di aglietto. Guarda che schifo non fa, io là ce lo metto sempre. Ma sai chi se la magna la tagliata di solito? Chi se la magna la tagliata? I primi arrivi di oggi. E la vogliono pure arrostita, perché loro sono i Black Keys. E a loro infatti piace nera. Nera, un po' come a Zucchero. Zucchero però, a differenza di Bocelli, la vede. Invece Bocelli La vede parecchio, anche di riflesso su uno specchio. Ma non perdiamoci su terreni che non sono più nostri, anche perché ci stiamo dedicando a un'omosessualità molto spinta. Esatto, io gli ultimi sei mesi sono stati arrembanti dal punto di vista fisico. Mamma santa, un sudario. E quindi andiamo su una sindone. Una sincope anche per arrivare al punto desiderato. Siamo sul, infatti, il titolo è la canzone. Perché la maniamo tanto? Perché Masturbazione, signori. No, Lonely Boy. E questo lascia pensare a molte cose. Esatto. E questo dovrebbe spingervi verso un certo canale. Pensa Telenuovo. Telenuovo, dove tagliano tutte le cose a metà. E non è Pacciani. Esatto. Ma si sta parlando di qualcos'altro. Favotto, ricordati che il CD precedente, Brothers, se tu lo compri, è un oggetto tra i tuoi preferiti, perché cambia colore col tempo, sì, e a seconda della luce. Come ogni migliore Madonna bianca che tu puoi comprare e mettere come soprannome, Madonna, come anche Colosseo oppure David di Michelangelo. Eh sì. Niente, questo a seconda della luce cambia colore, passa dall'azzurrino al rosetto al verdino. Patetico come poche cose, però il gruppo non è assolutamente patetico. Fa tanto marketing. No, i Black Keys sopravvivono da quanti album? 6 o 7? 7, se non sbaglio. E sono bravissimi e probabilmente sono tra le più belle uscite di quest'anno. L'uscita si chiama El Camino, l'abbiamo già anticipato il titolo del singolo. Black Keys, Lonely Boy, Music for Youth è tornata, ma siamo solo una dose di eroina veloce, solo per dire di averla provata. Toto, basta fischiare. Questo è un classico comportamento da superiori, territoriali. Lanci il sasso e nascondi la mano. Manona, esatto. Come prima. Sei un palestinese, lanci i sassi. E io lancio i sassi, un'intifada per te. E adesso chi mi arriva? Una canzone che abbiamo scelto è di questa, è dell'anno che dobbiamo premiare. Col cazzo. Ovviamente no. No. Perché? Perché fare un qualcosa in cui riusciamo a presentare tutte delle uscite 2011? Col cazzo. O come diceva cantava Cicciolina. Una hit, veramente una. Non la mettiamo, ha cambiato mai la storia. Abbiamo scelto che cosa? I Kills. Kills perché? Che ci cantano Muscolo Rosso. Ma no, mi dispiace, Tape Song. Forse tu intendevi la capigliatura e la cantante. Esattamente. Che ti ricordo, noi avevamo visto personalmente al New Age e siamo andati a toccare con le manine. E con le nostre manone abbiamo toccato Vivi o sì. VV. Oh, non Alison Mossad. Perché c'è scritto VV? Alison Mossad. E questo e qui un'altra che faceva parte del grande esercito dell'intifada. Che cacchio dovevano dire di questi di Kills? Lei si è dedicata a un altro progetto, quello con Jack White. Infatti in Oh Madonna, i Dead Weather, ecco come si chiamavano. Esatto. E ha un po' abbandonato questi Kills che invece tanto tanto bene promettevano. Kills, duo statunitense. Lei alla voce, lei bellissima fra l'altro, secondo me sensualità latina, sensualità a corte come dicevano su una bella trasmissione. Corti ho scritto corti. E quando che la che va a mettere che dopo cavarla via subito. Abbiamo finito queste citazioni tipo di Mosconi e tutta altra gente che finisce in Parlamento senza passare dal via. Sì, è vero, sì, esattamente. Noi intanto ci rintaniamo nel nostro vicolo stretto sperando di comprare la società dell'acqua potabile e vi facciamo sentire Tape Song. Sì, andiamo a ascoltare te, pensando qui, grande Blood Pressure, potrei dirti, andiamo a sentircela subito. Subito. Stay. Da Midnight Boom, questi erano i Kills con Tape Song. Siamo rientrati in Music for Youth e questa è una puntata speciale che verrà trasmessa una e una sola volta e non vi saranno ulteriori repliche, nel senso che proprio non vi sarà un seguito di questa trasmissione. Paganini non ripete, del resto cordiali ascoltatori, volevamo darvi così delle impressioni e delle suggestioni su quelle che sono state le migliori uscite del 2011 sulla base delle nostre, della nostra peculiare percezione, ossia Terzariol il favoto, e pensate che putpurì di cervello. A questo punto siamo arrivati alla tua scelta. Un anno che ha, bisogna dire però, ha dato molto, perché alla fine abbiamo uscite di numerosi nuovi gruppi, anche decenti. La rivincita del rock, forse, in parte. Esatto, un sacco di reunion, tra cui Genesis. Ma non se ne sentiva la mancanza. Recentemente, non so, Snoop Dogg alla versione statunitense di Ok, il prezzo è giusto. E vogliono parlare di Tullio D'Episcopo? Non dico, vogliamo parlare di Tullio D'Episcopo? Tullio D'Episcopo che si butta sulla letteratura. Buttati che atterri sul morbido. Esatto, Pessotto insegna, seguilo. Vai, vai. Braccia aperte, perché così sei più aerodinamico. Ma comunque, grandi nomi producono dischi notevoli quest'anno. Guarda, vedi? Gli altri non ci vedono, ma se io ti faccio così, che cosa vedi? Delle labbra. Bravissimo, perché stiamo andando al tuo pezzo. Io volevo parlare di Coldplay, ma comunque fa niente. Perché? Hanno fatto un disco schifoso, è inascoltabile. Hanno anche cantato con le cosce di Rihanna, tra l'altro. Beh. E c'è un gran parlare lì in mezzo. Le cosce di Rihanna cantavano. Sì, quelle comunque, 10 più. Tra le cose che sono state prodotte quest'anno ci sono anche i Black Lips. Black Lips, un disco che, boh, insomma, dimenticabile, però ci piaceva questo singolo, si chiama Family Tree. I Black Lips sono un gruppo statunitense che fa punk di Atlanta. Atlanta famosa per i giochi olimpici di Atlanta, dove l'Italia prese 13 ori. Tutti con le maschere da sub, visto che è sottoterra, sotto acqua. Esattamente. Atlantide. Atlanta. Vedi che avevo capito giusto. Atlanta, 13 ori, Peppinello di Capua sprona gli Abagnale, questi qui fanno Family Tree. Allora, chi sono i Black Lips? Tra l'altro, questo avere sempre Black Keys, Black Lips, il nero piace. Il nero sta con tutto, ricordatelo. Esatto, snellisce anche. Per non parlare di alcuni membri della tua famiglia, perché della mia, già lasciamo perdere. Infatti i membri della mia famiglia hanno tutti il ritmo del sangue e sanno suonare il basso. E ciò. Comunque i Black Lips fanno appunto questo misto di folk e punk, ne escono anche dei prodottini buoni. Una nota di colore è che il cantante dei Black Lips si è unito. Di che colore? Eh? Di che colore? È giallo il cantante dei Black Lips. Okay. Si è unito al cantante dei Deer Hunter, che anche questi hanno fatto un disco quest'anno. Quelli Alco Indigest. Esattamente. E insieme hanno dato vita al progetto Atlas Sound, di cui avevamo parlato quando ancora questa quando ancora questa trasmissione aveva una continuità. E tutte e due sono pubblicate per 4AD, magari. Ricordo Deer Hunter sicuramente sì. I Black Lips no, perché sono autoprodotti, hanno una loro etichetta un po' così, discutibile. I soliti sovversivi. Esattamente. Family Tree dei Black Lips, questa è Music for Youth. So cold. Aleger, Fabotto, Music for Youth 102.2, senti degli ospiti, senti il microfono e il telefono che va da cani? Fortunatamente riusciamo ad avere un ospite, perché la nostra conduzione di quest'oggi era veramente macabra. Simone, grazie di essere con noi e di salvare la dignità di questo programma. Allora, intanto vi mando subito a fare in culo entrambi, perché io volevo essere ospite. Lo so, ma ci sono stati dei problemi molto grossi. Dei problemi in testa vostra? L'intestino. Dai, sentiamo le domande che volete farmi. Ma sono in diretta? Sì, sei in diretta. Tu sei sempre ospite nei nostri cuori. Sei in diretta? Che domande vuoi fare? Ci mettiamo d'accordo? Vuoi sparare qualcosa sul nostro prossimo gruppo che ospiteremo? I Metronomi. Conosci qualcosa di Metronomi? Li conosco alla grande. Mi è anche dispiaciuto non vederli il 7 dicembre al Popcorn di Marghera. Ma come? Non è possibile? Ma davvero? Cioè, noi pensavamo di trarti in inganno, il famoso inganno della cadrega. Invece un cazzo. Ma guarda, ti dirò di più. I Metronomi, c'è una canzone in particolare che mi piace, che si chiama A Thing For Me. Spero che mettiate quella. No, mi dispiace, era stata scelta dall'ultimo album English Riviera, una cosa del genere, Everything Goes My Way. Quella più famosa, diciamo. Scusa, noi andiamo sul facile. Insomma, sei contento di questa ospitata telefonica? Non ti avevamo neanche avvisato. Fantastico, anche se sai che io preferivo essere lì con voi a sentire il buonissimo odore di quella stanza. Lascia stare. E ti dirò, fa freddo. Ti fa freddo? Fa freddo? Non ci accendono la caldaia, ma neanche se paghiamo oro, ma una roba veramente impressionante. Come state? Con i 2000 euro a testa che prendete voi due, ovviamente. I nostri super stipendi, ecco. I soldi li caghiamo. Come state, te Bogo? Un attimo di sponsorizzazione. Io parlo per me stesso e sto bene. Bugo sta bene anche lui, spero, insomma. Dopo ci vediamo più tardi, che dobbiamo andare a suonare a Caorle. Suonate bene, suoniamo, suonate per tutti. Perché siamo al telefono con uno dei Gain on Top, Favotto, volevo ricordartelo. Sì, esatto, i Gain on Top che da sempre sovvenzionano questo programma mandando dei musetti tra gennaio e marzo. E lo farete anche quest'anno, dunque, vero? Comunque sono ancora in tempo per quest'anno. Sì, madonna, ci stai sotto in pieno. Sappi che comunque non potrai essere più ospite, perché questa puntata va da sé. Cioè non ci sarà un seguito. È una one shot questa. Sì. Un po' come terzareo con le donne. Esatto, bravissimo. Ci metti la croce sopra e poi basta. E poi vai a vantarti con gli amici. Classica pornografia di bassa lega anni 80. Sì, anche esatto. di bassa età il più delle volte. Io, se fosse voi, farei una puntata al giorno di Pasqua. Perché? La chiamerei The Resurrection. Oh, che meraviglia. Special guest Lucifero. Avevate detto The Erection? Mi pareva. Ascolta, Simo, questa tua incursione finisce qua, perché sennò la musica. Però potresti presentare il pezzo. Ok, lo presento io, dai, fantastico. Sì, ti ricordo il titolo, è Everything. No, me lo ricordo, non occorre che me lo dici. Bravissimo. Allora, ora Music for Youth, il programma più inutile della storia dopo il mio blog. Sì. Abbiamo i Metronomi con Everything Goes My Way. again. Love, I'm in love again. Ma sono ingordi, eh. Ma sono ingordi. Che è scritto ingordi, I'm in love, and in love again, basta, te basterà una volta. Cioè, chi tanto e chi niente. Cosa possiamo dargli di più? Voi ci mettiamo sopra il paletto. Non so neanche io, non mi è più bastato niente, la cesta di Natale, non so. Vivo con degli uomini frigo che ingoiano tutto. Esatto, cioè, restano i polaretti Dolphin sopra, cioè... Sì. Sopra vuol dire in freezer. Cosa mi resta? 83 calorie, niente, un cioccolatino, non posso darti niente. Un bacio di dama. M83. M83, gruppo e formazione elettronica francese. Scusa, ma Zola giocava a calcio, quanto è? Esatto, Fit Zola Jesus, Zola Jesus, famosissimo. Sì, sì, nel Chelsea giocava. Famosissima, esatto. È cantante, autrice sarda. Utrecht. Esatto, sarda cattolica perché Sarco. Jesus. Ma pure, complimenti. Però va a messe ortodosse il mercoledì sera. Esatto, si cosparge di incenso e pancetta. Perché comunque sta sempre bene come combinazione. Guarda, una coppiata vincente. Dolce e Gabbana hanno già rilevato tutto per farci un profumo coi controcoglioni. M83, questo gruppo francese che fa elettronica e la fa bene. M83, il nome da che cosa mi deriva? Non ne ho la minima idea. Da Messner 83, che è una... Messner 83, che è una galassia. Pure. Sì. Ci sono dei riferimenti colti. Una galassia, tra l'altro, a spirale. E non fragarme dolce in questo mare, i riferimenti della galassia, gli universi, vaffanculo, famotto. No, una galassia a spirale, quindi anche c'è... Ah, spirale? Sì, esatto. Ognuno sceglie i metodi che gli pare. Una galassia contraccettiva anni 80, un poco. E ha fatto questo album nel 2011, si chiama Hurry Up, We Are Dreaming, e noi lo suggeriamo come un bel disco. Ci è piaciuto. Saturday Equal Youth, Equal, si dice Equal, sì. Equal. A me piaceva un sacco. Sì. C'era il singolo Graveyard Girl, ragazza tombarola. Esatto, spostiamole queste lapidi. E anche di potenza. Mettete i fiori sui vostri cannoni. Perché se la traccia si chiama intro è per quinta nel nostro programma? Ma non l'abbiamo mai capito perché è prima nel suo. Tra l'altro è un doppio disco. Pure. Sì. Ascolta, facciamo sentire sta canzone che ormai va sotto da due ci anni. Ci mettiamo sotto anche due fette di culo. Via via. Carry on, see the world. M83, questa era intro dall'ultimo album Hurry Up We Are Dreaming, se non ricordo male, perché vado a memoria, Favotto. Esattamente sì, questo era un featuring con Zola Jesus, una serie di altre collaborazioni interessantissime in questa Hurry Up We Are Dreaming. M83 che però, diciamo, lascia ora il posto a quella che è stata la nostra scoperta, e qui devo ringraziare tantissimo Daniele Terzariol, perché io ne avevo solo sentito parlare, mi ha fatto sentire il disco, l'abbiamo messo in radio e è stato bellissimo. La prima traccia della prima puntata di gennaio 2011, e noi avevamo ragione, ci abbiamo visto lungo, poi, come diceva Leandro Baldi. Esatto, o Laminetti. A questo punto siamo andati nelle moderne balere che so il New Age, e a distanza di 6 mesi abbiamo... Perché 6 mesi? Era novembre! È vero, di più! Sì, è vero. Mandare meriti alla gente che non se li prendano a casa. Salutiamo tra l'altro il nostro amico Viola, che... assiduo ascoltatore, e nelle moderne balere scopriamo che la gente inizia a accorgersi dei Vaccines. Oh, i Vaccines. Che cosa ti aspetti dai Vaccines? What you expect from the Vaccines? Il loro CD. Esatto, il loro disco d'esordio. Piaciuto moltissimo, una serie di singoloni. Wet Sweet, immagino il tuo pezzo preferito, esatto, visto il titolo. Sì, perché sai, se sei, comunque se hai una giacca bagnata non è mai brutto. Lascia stare, che fa la sua porca figura. Perché poi accoglie. Noi abbiamo cominciato con Wrecking Bar, ora scegliamo uno degli ultimi singoli, la durata è breve quanto Wrecking Bar, questa è Amanda Norgard. C'è da dire però che avevamo cannato anche in pieno e che avevamo presentato i Brothers, che non hanno avuto un successo, ma neanche a pagarli a monete da 56. No, i Brothers proprio sono stati dimenticatissimi. Ma forse anche giustamente, visto che il pezzo già poco mi convinceva. Proprio la famiglia li disconosce. Ma giustamente, tra l'altro tu, maledetto, se vuoi ricordarmi che uno dei due M83... Mm-hmm. Si chiama Nicolas Fromage. Perché non me l'hai detto? E l'altro è Gonzales, non giocava neanche col Vicenza. Esatto, no, per, poi vergognati, Favotto. Poi dopo gli hanno amputato il braccio, purtroppo. Bene, ascolta, ora torniamo a Della Decenza. Beh, perché piomba in studio una cantante molto molto brava, ce ne illustrerà, ne è vero, Alvise e Favotto. Una Stiamo frangia parlando di PJ Harvey. PJ come il figlio di Gamba di Legno su Topolino. Sei veramente acculturato, ma ora ti prego di restare su questa qua. PJ Harvey fa uno, secondo me, dei più bei dischi del 2011. Come dicevamo, una serie di ottime uscite nel 2011 di gruppi nuovi, ma anche delle sonore conferme. E tra le sonore conferme io personalmente metto PJ Harvey, che torna allo splendore, e Tom Waits, che non sentiamo qui e che è più che altro a gusto personale. Dovevamo scegliere tra PJ Harvey e Tom Waits. Avevamo già messo Tom nell'ultima puntata. Dacci una direzione. Tom, dacci un Garmin, come dicevano molti. Tra l'altro vorrei ricordarti che nell'ultima puntata, e l'avevamo già detto in anticipo, eravamo partiti con Zucchero. Esatto. E noi non siamo gente che la manda a dire. Esatto, il Chocaback comunque ci segue. PJ Harvey che cosa fa nel 2011? Fa questo Let England Shake. E quindi immaginatevi tutti questa folla di inglesi che muove il bacino. 10 su 10 dell'NME, eh? Esattamente. Pazzesco. Probabilmente, se, a mio parere, uno tra i più bei dischi dell'album, forse anche di più di un anno. Oh, tra l'altro uno dei più bei dischi dell'album. Dell'album, sì sì, certo, dell'albume, nel senso. Complimenti, vedo che l'Alzheimer va al galoppo anche per te. Esatto, quindi Let England Shake, inglesi che muovono il bacino. Album, diciamo, parte autobiografico, riflessivo molto, perché diciamo affronta temi legati alla storia d'Inghilterra. Eh sì. E è un in tempi di guerra. È un percorso che ha fatto PJ Harvey nell'ultimo suo silenzio, sostanzialmente passa un bel po' di tempo tra l'ultima sua uscita e questa, e c'è un percorso anche umano che PJ Harvey ha fatto, per, ad esempio è stata in Afghanistan per non poco e non era lì per far cosa? Regalare zozzerie ai soldati? Cosa ha fatto? Niente, lei... So, io chiedo, non so guardarmi su queste facce, stai rovinando tutto. Non è vero. No, si presentava con degli ombrellini di zucchero, sì, da regalare ai bambini. Dei centrotavola. E gridava lasciate che i pargoli vengano a me, ovviamente lo diceva in inglese, gli afghani non lo capivano tantissimo. PJ Harvey è tornata delusa e ha fatto questo disco che a noi però piace. The Last Living Rose di PJ Harvey dall'ultimo album Let England Shake. Questa era PJ Harvey da Let England Shake, l'ultimo album premiato con un 10 to 10 da NME. E ora Favotto, si parla di agorafobia, e quando si parla di agorafobia scendi in campo ovviamente tu. Beh, ma, sì, ma anche chi? Anche Burial. Oh, che bei momenti. Che Burial, gran bel ragazzo. Burial, due palponi. Esatto, sì, subito qua. Duetti di culo. Allora, Burial, una personcina bellissima. Esiste un'unica foto in rete di sta persona. Era pure sfocata. Esatto, dichiara ai giornalisti: io, a me interessa solo produrre dischi, non farò mai un concerto. Drammi. E in questo 2011 però si dimostra particolarmente attivo, credo nell'amplitudine del suo bagno. Infatti volevo dirlo. Cioè, Burial è un po' come diciamo il monumento dell'Ancilotto a San Donà, in sostanza. Crea grandi cose ma dietro delle pareti di legno. C'è dell'aspettativa ma tu stai là a guardare. E ma tu come un pensionato cincioni tra le assi di legno per vedere dov'è sto... Mani dietro la schiena, dov'è sta cosa, ma chi è, cosa mi rappresenta? Ce lo dice sempre a favore chi ci rappresenta. Allora, Burial è un produttore inglese di Londra, è diciamo balzato agli onori della cronaca a tempo addietro con un album che consiglio, bellissimo, e... A quei tempi non si sapeva chi fosse. C'è stato un... Quando voleva essere nominato per dei Grammy, si pensava fosse uno pseudonimo per Fatboy Slim o per Square Pusher. A questo punto sia Fatboy Slim che Square Pusher hanno detto: no, Fioi, non siamo noi. E infatti era Burial. Burial quest'anno ha prodotto molto. Ha prodotto in particolare il 2 remix per i Massive Attack. Un bel disco dei Massive Attack quest'anno. Vabbè. E poi ha prodotto un singolo che si chiama Ego Mirror assieme a Tom York e i Fortet. Perché non abbiamo detto che il 2011 è anche l'anno di uscita di Tommy. Eh sì, sono saltati fuori e Tommy non York. Il Figher. No, non era quello delle grandi marche da vestire. È Tom York, tornato tra l'altro alla prepotente ribalta in compagnia dei Radiohead, sì. E noi andiamo a Manina a vederli a Villa Manin, vero Favotto? Che meraviglia. No, là, finalmente un sogno che si realizza. Tra l'altro, ricordo che il mio sogno si è anche realizzato. Sono andato a vedere quel cicciotto di Billy Corgan, gli Smashing finalmente. Io ero butterato quella sera. Tu eri preso malissimo. È stato un grosso peccato. Tra l'altro Tom York fa questo video promozionale al primo singolo in uscita ballando con una bombetta. Ah, cosa Lotus Flower. Che se facciamo io e te ci prendono ridicoli a vita. Ma giustamente a calci sui denti. E invece lui è bello. Continuiamo con Burial, questa è Stolen Dog. Dog. Yeah. toccati il naso, Favoto, toccati il naso, che questa era roba da bamba, secondo me. Esatto. E ambienti thailandesi di pessimo livello. Para a bailar la bamba. Lascia stare. Salve, un pandoro bambato. Esattamente. Sì, sono 70 euro a fetta. che inflazione. Ci vuole le goccioline di cioccolato dentro. Mi fa lo scontrino, visto che siamo a Cortina, o lasciamo perdere? Mi dà un po' lei. Ma non lo so. Lei ha un autobus super lusso? No, è andato caput l'autobus. Oh, che bella battuta, Terzariol, quanta stima. Lascia stare, perché ti sto preparando il terreno, te sto solà che remeno con la vanga. Esatto. E non stiamo parlando di cadaveri. E neanche di patate novelle da tirar su. Il prossimo pezzo che andiamo a sentire si chiama Caput e è scritto da Destroyer. Destroyer. Questo Destroyer, sì, praticamente è un canadese. Bis, due volte? Esatto, Destroyer. Sì, so sfortuna. Due buchi. Ognuno ha la famiglia, non è che se la sceglie, esatto. Gli amici sì, poi sul resto. Però la famiglia non ci puoi fare niente. Un po' colpi di sedere. Esatto. O a colpi di bamba, prego, continua. Allora, Destroyer, cantante canadese, che però ha sempre voluto, molto probabilmente vergognandosi delle sue... Come quando tu fai una puzza in ascensore e inizi a guardare gli altri. Chi io? Sì. Ha sempre detto, no, io scrivo tutto, faccio tutto, ma siamo una band. E mi chiamo Destroyer. Non è vero niente, invece è da solo. In realtà è la produzione di questo canadese random che arriva all'esordio e fa un esordio col botto. Che manda caput tutti quanti. Esattamente. Delle, diciamo, reminiscenze. Anche i cavoli, i famosi cavoli caputti. Puoi continuare. Allora, sì, avevo lo so, dei scusami. Momenti di veramente basso. Vabbè, una morisco. Puntata, ce la giochiamo, sì, scusa. Sì. Siamo tra l'altro siamo oltre il 45esimo, quindi siamo quasi in zona Cesarini, no? Scatta ora il 50esimo. Minuti di recupero. Netto fallimento. Quindi palla lunga e pedalare, Terzariol. Caput, singolo di Destroyer. Destroyer che ha, diciamo, pesca dalla wave, cosa che non fa nessuno ultimamente, guarda, proprio. No. Bowie principalmente, New Order in seconda battuta, piace alle masse non tanto. Piace alle mamme. Piace alle mamme sì, ai bambini un po' meno, la dolce uchessina. Allora, per quegli altri te la cavi da te col water. Caput, sentitevi anche Chinatown, tanto un bel singolo, noi Caput. Thank you. hope you are a prince on the ocean. In a pinch, in the sky, in your eye. Step out of your toga and into the ocean. Look, they got your prince on the fall. In a pinch, in the sky. E anche questa puntata sui sassofoni poi portati da Destroyer se ne va. Dei sassofoni molto balera thailandese. Lascia stare, che si fa fare. Su ballera thailandese, voi non lo vedete, ma Terzariola ha fatto proprio quel volto da chi ha vissuto. Da chi c'è stato. Vabbè, insomma, si parlava di Manila, noi, vero? Esatto, di noi tutte quelle fatto... altre belle capitali delle tigri. Le tigri asiatiche che tanto hanno dato alla nostra, diciamo, virilità. Economia di scala. Esatto. Andiamo con i saluti finali, perché questa puntata, come abbiamo detto, si chiude e non avrà un seguito, fortunatamente, presumo. Stiamo pensando ogni tanto di ripetere questo rito e di anche eleggere un nostro animale guida. Sì, ma a caso, io scelgo l'elefantone degli ippopotami. L'elefantone degli ippopotami è interessante. Degli assorbenti della Lines, quello blu. Io posso avere l'ippopotamo Pampers. No, era lui, scusa, non era quello della Pampers. Vedi che faccio sempre confusione. Hai vinto tu, te lo porti tu a casa. Che bello, un ippopotamo blu, Viagra per lui. Quanto felice. Quanta felicità per le ippopotamesse. Ascolta, ippopotamessa, noi dobbiamo dire che questa puntata, possiamo dirlo, questa puntata è recuperabile da un blog. Il blog che sempre c'è stato e sempre ci sarà, anche perché l'ultima che abbiamo fatto a giugno, all'inizio era stata scaricata un tot persone. Tipo nel, due. Nel io tempo e lui. Sono aumentate di 40. Cioè, perché quest'estate avete scaricato il nostro MP3? Non importa, non sappiamo neanche da dove, visto che siamo stati pure cancellati da Sherwood. Veramente, vabbè. Grazie per questa stima rinnovata. A proposito di stima, ringraziamo la stima Don Bosco. La stima Don Bosco che ci fa sharing sulla sua pagina, perché è contenta che la nostra puntata sia ascoltabile a Music for Youth. wordpress.com Favotto Youth, come la scrivo? YOUTH per i non anglofoni. Bravo. Vorrei dire che i giocatori della stima Don Bosco, che noi stimiamo tantissimo, quando si feriscono cambiano in stigmata Don Bosco. E stigmata Don Bosco, e per la felicità di Padre Pio, e non continuare, perché già ti vedevo pronto con il seguito. Sì, esatto, come quando eravamo a Manila. Esatto. Ascolta, Favotto, io ti saluto. Anche io saluto te, anche se ti vedrò probabilmente fra due ore. E andiamo con la traccia di chiusura, che è una parte di un album che ha fatto molto bene in questo 2011. Non dal punto di vista delle classifiche, ma qualitativamente. Assolutamente sì, uno dei più bei dischi di questo 2011, James Blake. Noi avevamo portato una traccia già alla fine del dicembre. L'unica che aveva pubblicato era una cover di Face the Limit to Your Love. Mm-hmm. Il ragazzo si è dato da fare, ha lanciato anche un EP con Bon Iver. Esattamente, sì. Anche lui ha rischiato di finire nelle nostre grandi hit list di fine anno, però le tracce sono un po' spagagassi, per dirla così, e quindi ascoltatelo di vostro, ve lo consigliamo. James Blake, il pezzo scelto è, dillo tu Favotto, William Scream, che tra l'altro era un gruppo punk. A quanto pare. Favotto, è arrivata la fine, io ti saluto, siamo già in ritardo ovviamente. Io saluto te. Stammi bene, non ci risentiamo magari mai più. Esatto, le ricordo, terza riola, che sì, lei comunque è accusata di 16 omicidi. Vabbè, il mondo è bellissimo lo stesso. C'è la pace tra i popoli. Ciao a tutti, questo è James Blake, alla prossima puntata. Arrivederci. Love it.